picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. Il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto. Puntata numero 25 per Picchi di Frequenza. In questa puntata un editoriale di Luca Trada su Simone Moro e le sue ultime imprese. Avremo poi la seconda parte della intervista chiacchierata con Luca Mocarelli, un po' di buona musica e la recensione di Martino Iniziato. Quindi restate con noi per un 30 minuti di montagna a 360. La recente prima ascensione invernale al Nanga Parbat, compiuta da Simone Moro, ha riportato in auge sui media mainstream l'alpinismo, sia quello extraeuropeo che più in generale la tematica di quali sono le nuove frontiere, dove va l'alpinismo, insomma una domanda che ogni decennio ricorre ogni qualvolta che sembra raggiunto il limite massimo oltre cui l'uomo si è spinto rispetto alla montagna. Ma è chiaro che questo tema ha avuto ridondanza anche per la figura di Simone Moro, recentemente portata alla ribalta degli schermi dal reality Monte Bianco. Ma è altrettanto vero che proprio il tema delle grandi conquiste, delle conquiste extraeuropee, pone in sé un problema non da poco, che è appunto dove va oggi l'alpinismo in un ambiente montano sempre più devastato e dai cambiamenti climatici e soprattutto dall'opera dell'uomo, sia nelle zone più sviluppate ma anche nelle valli sperdute himalayane. E su questo tema appunto oggi fa una buona riflessione Paolo Rumiz sulle pagine di Domenica, 20 marzo, e proprio a sottolineare questa contraddizione tra questa ricerca di confini sempre più spinti, sempre più estremi nell'alpinismo dell'arrampicata e nello stesso tempo come queste figure mainstream si dimenticano che le nostre valli appenniniche si desertificano, che i nostri ghiacciai, le nostre acque alpine sono sempre più prosciugate dai cambiamenti climatici e dall'azione dell'uomo. Ecco, ci piacerebbe che questi personaggi mainstream, invece che dettare dalle pagine dei giornali o dai video televisivi scenari o nuove strade per quello che è l'alpinismo, si preoccupassero un attimo anche di quello che è la montagna, non solo da un punto di vista di business, ma proprio da un punto di vista della necessità di proteggere questo ambiente dentro un globo che sempre più sta portando il clima, le acque, i ghiacciai a sconvolgimenti irreversibili. Ecco, ci piacerebbe che di questo parlasse Simone Moro e non solamente di spedizioni extraeuropee e di nuove pareti da conquistare. A presto. Is it cruel or kind not to speak my mind and to lie to you rather than hurt you? Well, I'll confess a lot of my sins after several large gins, but still I'll hide from you, hide what's inside from you. And the alarm bells ring when you say your heart still sings when you're with me. Oh, won't you please forgive me? I'm no longer near you. If you wanna try, if you wanna try, there's no worse you could do. Oh, I know you lie, I know you lie. I'm still in love with you. Oh, can't take me anywhere, I'll take you anywhere. You can't take me anywhere, well, I can't take you anywhere. I'll take you anywhere you wanna go. Oh, you can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no. America, I will call. Avevamo proposto la prima parte della lunga intervista fatta da Martino Iniziato a Luca Mocarelli, docente di storia e direttore della rivista di storia delle Alpi. Questa è la seconda parte in occasione dell'uscita dell'annuario del 20° anno, la rivista di storia delle Alpi. Nel volume invece c'è un saggio intitolato Continuità e cambiamento, economia e istituzioni nello spazio rurale alpino in Friuli e nel Tirolo nei secoli tra il XVI e il XIX. Mi ha suscitato in realtà una domanda che mi è venuta anche dalla lettura dell'ultimo numero di Meridiani Montagne, che dedica uno speciale alla crisi di Cortina, secondo cui insomma la città sarebbe in crisi, la zona sarebbe in crisi perché il turismo non è più solo quello di lusso che l'ha resa insomma famosa. E una delle proposte che sono state avanzate dal presidente della Regione Veneto è la realizzazione di un aeroporto che porti sostanzialmente i turisti ad arrivare praticamente in paese. La rivista però si sofferma sul fatto che questa cosa dovrebbe essere difficile per via dell'organizzazione del territorio che rimanda la proprietà ai locali che hanno una struttura particolare. Se si parla Cortina è impossibile. Esatto, ci descrivi un po' come è strutturato l'organizzazione del territorio e le istituzioni che governano il territorio in quella zona, se insomma. No, ma lì è sempre legato al discorso a cui accennavo prima delle proprietà collettive. In quella zona lì, ma anche in parte poi del Trentino e del Veneto, c'è un'istituzione particolare che sono le regole, che risale al Medioevo. Quindi in un regime come quello delle regole, che tra l'altro è stato riconosciuto poi dallo Stato italiano negli anni 50, quello che succede è che di fatto a Cortina, ma non solo a Cortina, anche in altre parti del Cadore, in Val di Fassa, la conca di Cortina sostanzialmente, che sono poi i pascoli, i boschi eccetera, appartengono ai regolieri e quindi alle famiglie degli antichi originari di Cortina, che si riuniscono in assemblea, i maschi ovviamente, e decidono di cosa fare e come gestire e come utilizzare il loro territorio. Per cui quello che succede in realtà, ed è quello che ha preservato di fatto Cortina dai disastri del turismo di massa, è che nella conca di Cortina non si può tagliare un albero se l'assemblea dei regolieri non è d'accordo, figuriamoci fare un aeroporto, è assolutamente impossibile, a meno che ovviamente l'assemblea a maggioranza deliberi che si vuole fare l'aeroporto. Ma lì è sempre successo così per tutto, per costruire gli impianti da sci, per fare le piste, perché qualsiasi cosa che riguarda di fatto toccare i boschi o i pascoli, che poi vuol dire di fatto la conca di Cortina, non può avvenire, i cambiamenti che si vogliono fare non possono avvenire se non c'è l'accordo della maggioranza degli antichi, che poi sono le famiglie originarie di Cortina. Adesso loro hanno qualche problema perché anche le famiglie originarie si stanno assottigliando, quindi c'era questo, tutto questo dibattito se inserire comunque nell'assemblea dei regolieri anche le donne e quindi comunque anche le figlie femmine e non solo i maschi, in modo da continuare a mantenere comunque in piedi questo modello di gestione territoriale. Ecco, ricordo invece di una tua lezione a cui ho assistito, in cui ti sei soffermato per alcuni momenti sulle differenze di approccio economico tra le Alpi occidentali, in particolare la Val d'Aosta, e in particolare ancora di più le forme di sviluppo urbanistico, e invece quelle del Trentino, soprattutto l'Alto Adige, dove il ripopolamento è avvenuto anche grazie allo stimolo che è stato dato al rilancio delle attività produttive montane e così via. Da questo punto di vista, come evolve il contesto tra le due aree, insomma, per quanto poi ovviamente si può andare a circoscrivere, però... Il discorso è proprio che sono di fatto due modelli alla fine di sviluppo turistico completamente diversi, opposti, nel senso che in Val d'Aosta per lunghissimo tempo, sostanzialmente fino a pochi anni fa, non si sono messi di fatto vincoli o limiti alla costruzione delle seconde case, per cui c'è stata una proliferazione enorme delle seconde case. Oggi in Val d'Aosta praticamente quasi il 50% delle abitazioni che ci sono seconde case, e quindi sono case che non sono abitate da residenti e sono case che, tra l'altro, essendo case in montagna, è un problema che hanno anche le Alpi francesi dall'altra parte, e loro le chiamano in un modo molto suggestivo i letti freddi, perché sono di fatto case che sono utilizzate veramente da alcuni soltanto una settimana, 10 giorni all'anno, cioè nelle vacanze di Natale, poco più, e che però pongono tutta una serie di problemi anche dal punto di vista dello sviluppo economico delle aree, innanzitutto perché hanno un impatto ambientale molto forte, perché si costruisce, e poi soprattutto anche perché non è solo il discorso delle case, ma le seconde case vuol dire comunque fare strade, parcheggi, infrastrutture, acqua, luce, gas, per abitazioni che di fatto vengono utilizzate poche settimane all'anno, quindi c'è un consumo di territorio molto forte. In Alto Adige invece è stata perseguita una strada diversa, perché anche lì inizialmente era cominciato il discorso delle seconde case, ma è stato bloccato già sostanzialmente a partire dagli anni 70, per cui se in Val d'Aosta le seconde case sono il 50% più o meno, in provincia di Bolzano non sono neanche l'8%. È stato bloccato e invece si è puntato a un'altra forma di sviluppo turistico che mirasse soprattutto a valorizzare le peculiarità locali, quindi dal punto di vista dell'ambiente, del paesaggio, ma anche dal punto di vista dell'agricoltura, delle produzioni tipiche, e questo ha portato ovviamente, rispetto alla Valle d'Aosta, a un modello di sviluppo completamente diverso, perché ci sono molti più alberghi, molti più agriturismi. In Val d'Aosta ci sono una sessantina di agriturismi, in provincia di Bolzano ce ne sono più di 2000, quindi c'è proprio un divario. E va anche detto che questo discorso dell'agriturismi e quindi del legame tra attività turistica e agricoltura in Alto Adige è stato favorito rispetto alla Valle d'Aosta anche di nuovo dalle istituzioni diverse che ci sono dal punto di vista giuridico, perché in Alto Adige si è mantenuto anche quando è arrivata l'Italia e quindi il Sudtirolo è entrato nel Regno d'Italia, il regime del maso chiuso, per cui in Alto Adige la proprietà fondiaria non si fraziona, perché l'unico che ha diritto a ereditare e a gestire la terra è il primogenito maschio, che deve ovviamente compensare in qualche modo i fratelli e le sorelle, ma in quel modo lì la terra non si divide e quindi comunque ci sono appezzamenti di terra di dimensioni tali che consentono anche di fare un'azienda agrituristica, eccetera. In Val d'Aosta invece c'è un regime completamente diverso, per cui ereditano tutti, per cui si è arrivati molto presto a un frazionamento enorme della proprietà fondiaria, per cui molte famiglie in realtà sì, sono in teoria ancora proprietarie di terra, ma di pezzi di terra che sono poco più grandi di un orto, e questo rende difficile fare qualsiasi cosa. Per esempio ho un amico piuttosto che è in un villaggio, ma di poche case, che a poco stanno cercando di rimettere a posto, e una delle cose che lui voleva fare era recuperare e rimettere a posto, rifare funzionare il vecchio forno della comunità. Quando però ha voluto fare questa cosa di rimettere a posto il vecchio forno della comunità e si è un po' informato, si è reso conto che il forno della comunità apparteneva a circa 35 persone, perché ogni famiglia ne aveva un pezzo, gli eredi della famiglia avevano un pezzo, per cui di fatto la cosa è stata impossibile, perché non è riuscito assolutamente a rimettere tutti d'accordo per fare questa cosa. Ecco, l'ultima domanda che ti farei è: allarga un po' l'orizzonte. Abbiamo parlato di Val d'Aosta, abbiamo parlato di Trentino, nel numero ci si sofferma anche sul Friuli Venezia Giulia. Una cosa che mi sono sempre chiesto è perché le zone montane del Friuli Venezia Giulia non sono mai riuscite a sviluppare un'economia un po' più funzionale, un po' più virtuosa, non so come definire la maniera corretta, rispetto anche solo alle Dolomiti di fianco. Chiaro che c'è una differenza magari di impatto paesaggistico rispetto al turismo invernale, eccetera, però sono zone che comunque hanno sempre avuto grandi... Chi è? Salve, scusi, Nenzada non c'è? Non l'ho visto oggi, non è ancora venuto, non so se viene dopo. Grazie. Prego. Sono zone che hanno sempre avuto migranti, artigiani, cioè... Come mai è rimasta una zona arretrata sostanzialmente? Perché anche ora sono zone che soffrono, come dire, hanno un dislivello di sviluppo rispetto al Trentino, al vicino Trentino, insomma, perlomeno, anche l'Austria. Sì, lì anche lì è un modello diverso, perché innanzitutto dal punto di vista dello sviluppo turistico e delle possibilità di sviluppo turistico, non c'è dubbio che se uno pensa anche alla montagna friulana rispetto alle Dolomiti o anche rispetto alla Val d'Aosta, il Friuli è più sfavorito, perché comunque è una montagna diversa, tra l'altro una montagna più bassa, per cui anche dal punto di vista delle possibilità del turismo invernale, che poi è diventata ormai in montagna, quello che succede è che gran parte del turismo è un turismo invernale. L'Alto Adige è un'eccezione, è l'unica eccezione, nel senso che l'Alto Adige, proprio perché è riuscito a sviluppare un modello di turismo più armonico, cioè in realtà più presenza d'estate che d'inverno, ma le altre in realtà sono uguali alla Val d'Aosta, c'è una stagionalità fortissima, per cui lì è penalizzato da quel punto di vista. Poi è anche vero che il Friuli dal punto di vista economico ha visto lo sviluppo dei distretti industriali, per esempio, nella parte più bassa, e quindi c'è stato un discorso maggiormente puntato sull'industrializzazione. E poi l'altra cosa che secondo me incide molto è un discorso di comunicazioni, cioè che il Friuli comunque rispetto ai grandi centri della domanda, che sono Milano, è lontano, è molto più difficile, banalmente anche senza andare in montagna, se andare a Trieste, vuol dire che è una bellissima città, che potrebbe essere una grandissima città turistica, però da Milano sono 4 ore, perché è proprio anche difficilmente raggiungibile, e quindi chiaro, tra l'altro per quanto riguarda il turismo montano, loro hanno anche il problema della concorrenza che hanno l'Austria attaccata, dove hanno località sciistiche, sì, la Kitzbühel, per cui anche lì uno potrebbe dire sono più vicini all'Austria, ci vanno gli austriaci, ma gli austriaci ovviamente hanno le loro località sciistiche, dall'altra parte c'è la Slovenia che non è ancora sviluppatissima e quindi i turisti sloveni che vanno a fare non ci sono, e quindi sicuramente sono in una posizione diversa e più difficile. Sì, è vero anche che Trieste, quando smette di essere il porto dell'impero, diventa lontanissimo, cioè prima era il porto dell'impero, come dire, città florida, meravigliosa, ricca, poi ti lontano da tutto perché non c'entri più niente con l'Austria, in Italia sei era fuori dal mondo. Sono rimasti sicuramente Trieste soprattutto, adesso questo si vedrà benissimo perché stiamo organizzando col comune di Trieste, col comune di Vienna, questa serie di iniziative sulla città di Maria Teresa, perché sono 300 anni della città di Maria Teresa, e lì Trieste è una città che deve tutto a Maria Teresa, diventa Porto Franco e diventa poi Porto dell'Impero. Però anche è vero che quando finisce di essere il porto dell'impero si trova rispetto poi all'Italia in una posizione assolutamente periferica. Ancora oggi ci vogliono 4 ore comunque andare a Trieste in macchina, in treno anche di più, per cui e quindi abbastanza defilato. Grazie, figurati. I'm dirty and I want to be pretty. Tomorrow, I know I'm just dirt. Today I'm dirty and I want to be pretty. Tomorrow, I know that I'm just dirt. We are the nobodies, wanna be somebodies. We're dead. Know just who we are. We are the nobodies, wanna be somebodies. We're dead. Know just who we are. Yesterday I was dirty, wanted to be pretty. I know now that I'm forever dirt. Yesterday I was dirty, wanted to be pretty. I know now that I'm forever dirt. We are the nobodies, wanna be somebodies. We're dead, but know just who we are. We are the nobodies, wanna be somebodies. Nella catena alpina l'ambiente ad alta quota si manifesta in genere già verso i 3.000 metri. Un numero limitato di cime raggiunge i 4.000 metri, tra le quali solo alcune superano i 4.500 ed una singola, il Monte Bianco, sfiora i 5.000. Paragonate alla maggior parte delle altre sommità della catena alpina, le cime di 4.000 metri assumono quindi proporzioni rilevanti. Malgrado la loro altezza sia, in valore assoluto, la metà di quella dei massimi picchi himalayani, i 4.000 sono i veri e propri giganti delle Alpi, montagne maestose, celebri e ricche di grandi storie di alpinismo. Il grande libro dei 4000, Vie normali e classiche, curato da Marco Ormelli e Valentino Cividini per l'edizione Idea Montagna, raccoglie dunque in una guida, utile, completa ed impreziosita da un affascinante materiale fotografico, tutti i 4000 delle Alpi, presentandone le caratteristiche, le difficoltà, il fascino ed i rischi. Fotografo e scrittore di alpinismo Marco Ormelli, operaio in fabbrica ed alpinista appassionato Valentino Cividini. I due autori passano in rassegna con schede dettagliate i 4000, fornendo uno strumento utile a chi volesse approcciarsi all'alpinismo d'alta quota. Dal Gran Paradiso al Gran Comben, dal Weisshorn al Monte Rosa, dal massiccio del Bernina al tetto delle Alpi, il Monte Bianco. Bianca e rotonda come la luna piena, scrivono gli autori, la cima del Monte Bianco domina dall'alto dei suoi 4810 metri tutto il vastissimo e articolato microcosmo che costituisce il massiccio omonimo. Suggestiva calotta nevosa sommitale è il culmine di un gigantesco edificio che non ha eguali nelle Alpi per dimensioni e complessità. Le tormentate distese glaciali del versante nord, con la lunga lingua del Glacier de Bosson, la complicata corona di cime e satelliti, tutte di molto superiori ai 4000 metri, le alte muraglie di ghiaccio e il granito rosso dei versanti italiani. Da tutti i punti di vista, questo colosso esibisce forme e dimensioni difficilmente riscontrabili in tutto il resto della catena alpina. Che dire, buona lettura e buona ascensione. Anche questa puntata, la numero 25 di Picchi di Frequenza, volge al termine. Io, come di consueto, vi ringrazio per essere stati con noi, spero vi sia piaciuta e vi invito a idee, segnalazioni, critiche, proposte, suggerimenti, insomma un po' quello che vi pare, anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, che poi sarei io, all'account @abuzzo3 del social network azzurro o alla pagina Picchi di Frequenza per quanto riguarda quello blu, perché dovete sempre ricordare che noi ci sentiamo ogni venerdì alle 20 in punto su Radio Onda d'Urto, ma ci ritroviamo anche attraverso questi aggeggi tutta la settimana con un archivio pubblico di tutte le precedenti puntate, le 24 puntate che di questo nostro cammino, sull'account di Spreaker, che trovate appunto su Facebook, Twitter, eccetera eccetera. Prima di salutarci però un paio di segnalazioni, intanto perché a partire da oggi mi trovate alla Festa del Camminare, quindi se siete nel Parco dell'Appennino, il festival Le Vie dei Canti tra Terra e Cielo e Rifugio Isera organizzano questi 10 giorni di racconti e cammini, escursioni e presentazioni, scambi e gite, insomma una Festa del Camminare lunga 10 giorni in cui racconteremo anche la lunga storia dell'Associazione Proletari Escursionisti. Tra le altre cose, proprio questo weekend l'Ape di Milano organizza 1-2 giorni al Rifugio Menaggio, rifugio gestito da Dario, forse uno dei primi ospiti di Picchi di Frequenza, quindi sabato e domenica 26-27 marzo al Rifugio Menaggio, con prevista la possibilità di pernottamento e una via ferrata che è quella poi del centenario, quindi quella del Club Alpino Operaio di Como, proprio lungo il versante sud del Monte Grona, e la domenica, tempo permettendo ovviamente, una escursione ciaspolata su per la sella di Sant'Amate, il Monte Bregagnino e quindi fino alla vetta del Bregagno, che è un panettone che insomma sfiora quota 2107 metri. Se avete voglia di stare con noi, o insomma se qualcuno da Brescia, in particolare dall'Ape, ha intenzione di passare a trovarci, mandateci una mail a milanoape@gmail.com, trovate le altre informazioni su ape-milano.it, prenotatevi anche piuttosto in fretta perché i posti sono a un passo dall'esaurimento, anche insomma con sistemazioni meno comode del previsto, quindi così 1-2 giorni che può aiutarci a recuperare lo spirito di sempre, mentre in occasione appunto del Festival del Camminare andremo a fare anche qualche sopralluogo in previsione di un campeggio estivo di cui avremo occasione di chiacchierare insieme nelle prossime puntate. Ancora un saluto e buon proseguimento sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.